gioia senza fine alla tua presenza. Fa parte di un salmo, è parola della Bibbia, Sacra Scrittura, è quindi parola di Spirito Santo. Carissimi, la giornata di oggi è stata tutto un invito alla gioia. E a questo invito avete risposto. State rispondendo. Risponderemo ancora in questo tramonto. Gioia senza fine per coloro che vivono alla presenza di Dio. Ma ci viviamo tutti alla presenza di Dio? Sì, ma chi è che si accorge? Questi che si accorge di essere alla presenza di Dio è nella gioia. Gioia senza fine alla tua presenza, oh Signore. È un avviso questo, detto pure in forma poetica, lirica, ma è un avviso. Se tu non sei sempre nella gioia, è perché non vivi alla presenza di Dio, se non qualche volta. Ma se tu ti abituassi a vivere alla presenza di Dio, facessi della presenza di Dio il tuo habitat, il tuo appartamento, questo diventerebbe il tuo divertimento. Abbiamo bisogno di divertirci, ma tutti i divertimenti hanno un limite, varcato il quale non sono più divertimenti, ma sono oppressioni, schiavitù, insopportabili. Se viviamo nella presenza di Dio e di questo pensiero noi facciamo l'habitat, l'abitudine, come un vestito del quale spogliarci mai, allora noi facciamo della vita tutto un divertimento, tutta una gioia. I santi, le sante, hanno fatto questa scommessa, hanno fatto questo esperimento. Non si sentivano alla presenza di Dio la domenica per la messa e finita la messa, cessata questa esperienza di Dio. No. Ecco, siamo compagni di viaggio dei santi. L'abbiamo ripetuto tante volte oggi, con la gioia nel cuore e nel canto. Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi, oh mio Dio. E i santi avevano fatto l'abitudine di vivere alla presenza di Dio, non appena durante la messa, durante le preghiere, durante il pellegrinaggio a Međugorje o a Lourdes o a Fatima o in Terra Santa. No, i santi hanno fatto del mistero di Dio il loro habitat, la spiegazione del loro stesso mistero. Sentite, ognuno di voi è un mistero. Datemi ascolto, almeno per questi giorni. Ognuno di voi è un mistero irrepetibile. E chi vi spiegherà questo mistero che siete? Soltanto il mistero di Dio può spiegare il mistero dell'uomo. Voglio io trovare spiegazione del mio mistero? Devo immergermi nel mistero di Dio. Parlate ad un pesciolino. Senti, tu, chi sei? Che fai? Vi risponderà che anche lui è un mistero. E chi ti spiega il tuo mistero? L'acqua. Senza l'acqua, senza il mare, senza l'oceano, senza il lago, io muoio. Ecco, il paragone è bellissimo, semplice. Noi o viviamo dentro il mistero di Dio oppure diventiamo persone problematiche, tristi, insopportabili. Ne abbiamo sempre uno di grilli per la testa, sempre pieni di paura, occhio qua, occhio là, inquieti, come il pesciolino. Se tu non lo immergi nell'acqua, povero pesciolino, si dibatterà e morirà. Perché la spiegazione del pesce gliela può dare solo l'acqua del mare.